cerco di far provare quella sensazione attraverso il mio racconto musicale. Oh, grazie, vostra eccellenza, grazie. Ascoltando una musica bella da ballo. E io sono Gigi D'Agostino, musicista tanzerino. E chi si è sintonizzato adesso è bene che sappia che sto suonando io. È altra storia.

D'Agostino. Lei è il più fulgido astro del firmamento musicale. Giorno, ora seconde, c'è la musica che sfonda, dillo pure all'amica tua, D'Agostino suona alle due. Al numero 333-64-67-662. Capito come? cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Musica allo stato puro. Dai. Gigi D'Agostino. ormai sta a fare, ormai stiamo a giocare qua. Dai e boh! D'Agostino suonerà in Austria. Mentre domani pomeriggio sarà a Rimini, in fiera. Intorno alle 15 sarà ospite nel programma del DJ Provenzano, live nello stand della Citroën. Per maggiori informazioni visitate il sito internet www.gigidagostino.com. Entrate nel forum, lì troverete tutte le informazioni che vi servono. Ciao, sono Gigi D'Agostino e altre storie. Baby,